Allora ritorniamo in diretta, sono le 11.50, parliamo, come abbiamo annunciato nel corso del sommario, del piano casa. Lo facciamo con Luca Faggiano del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa. Ciao Luca, buongiorno. Ciao a tutti e tutte, buongiorno. Allora, è stato così l'altro giorno votato questo maxi emendamento, la delibera che, come dire, rende operativo questo piano casa che è stato per lungo tempo in gestazione tra regione e comune, dopo chiaramente così essere stato elaborato in sede governativa. L'altro giorno si è arrivati appunto a questa votazione, la delibera è stata approvata, l'ennesimo regalo ai costruttori è stato fatto. Io ti chiederei, Luca, dato che la materia è alquanto complessa, se puoi brevemente, insomma, riassumerci un po' i contenuti del piano casa, ma soprattutto, insomma, quelli che in realtà sarebbero dovuti essere degli aggiustamenti, insomma, da parte della Giunta, in realtà non ci sono stati, anzi credo che si sia alimentata, insomma, la possibilità per privati, costruttori e palazzinari di cementificare la nostra città. Certo, io cercherò di dare alcuni elementi. È chiaro che non sono un tecnico, è una materia molto complessa, per cui mi limito a dare alcuni elementi e a fornire una nostra interpretazione politica, insomma, a partire appunto dal punto di vista dei movimenti per il diritto alla casa e all'abitare. E voglio dire intanto questa cosa, nel senso che la gestazione di questo piano casa e la sua approvazione, credo che sia doveroso ricordare che avviene con input del precedente governo, del governo Berlusconi, e per quanto riguarda ovviamente lo specifico del Lazio è avvenuta per mano di Piero Marrazzo, cioè dell'ex presidente della regione, e che discutiamo quindi di una revisione molto sostanziosa e in peggio di uno strumento già pessimo, che già lasciava, come dire, troppo a nostro giudizio le mani libere, insomma, ai costruttori, ai palazzinari, ai soliti noti, per deregolamentare ancora, diciamo, gli spazi di pianificazione urbanistica e dettare loro legge rispetto allo sviluppo della città. Per cui parliamo ovviamente di un provvedimento che in particolare il vicepresidente della regione e assessore all'urbanistica Ciocchetti ha costruito proprio, come dire, come elemento centrale del suo programma di governo. Insomma, parliamo fra l'altro di un rappresentante dell'UDC, insomma, oltre che della Giunta Polverini. Il piano casa è stato approvato, avete letto le polemiche che ci sono state in questi mesi, anche quelle relative al fatto che secondo me non è da poco, insomma, come elemento di considerazione. Ci sono state poche domande per utilizzare i nuovi strumenti del piano casa, cioè gli ampliamenti, la persona che vuole farsi la stanzetta in più, la soffitta, eccetera eccetera. E adesso ci dicono che col regolamento che darà indicazioni più precise agli uffici tecnici dei comuni, eccetera eccetera, arriveranno un sacco di domande. Invece, come dire, le pochissime domande hanno svelato una cosa che a chi era più attento, diciamo, come lettore e come interessato direttamente rispetto a questi processi, era già visibile, cioè il fatto che questo piano, più che aiutare, come dire, le persone a fare la stanzetta in più, che comunque, come dire, in qualche modo è dentro una logica discutibile, no? Perché c'è una città che va comunque conservata dentro un meccanismo di pianificazione, però evidentemente quello è un grande bluff per provare a dire che è uno strumento per tutti, invece appunto si rivela uno strumento soprattutto per i grandi costruttori, per assalire ancora una volta non solo Roma ma la regione Lazio. E quello che è avvenuto in questi giorni in Campidoglio era un passaggio non da poco, ma è che evidentemente non poteva rivedere la legge regionale approvata prima da Marrazzo ed ora da Ciocchetti Polverini, però poteva mettere dei paletti sicuramente consistenti. Mi pare che il sindaco di Roma, come abbiamo denunciato con le iniziative che abbiamo messo in campo in questi giorni, non lo abbia fatto, cioè è partito facendo la sparata, insomma, da sindaco, che avrebbe ristretto notevolmente i paletti rispetto a questa vicenda. Non lo ha fatto perché sarà comunque possibile demolire e ricostruire con il 40% d'aumento di cubatura. Lo si potrà fare, poi se vogliamo entriamo anche un po' nel merito, con procedure estremamente semplificate, insomma, che di fatto, come dire, rendono ancora più inutile il piano regolatore di Roma, che già era possibile, come dire, per cui era già possibile andare sempre in deroga con gli accordi di programma. Adesso è veramente tutto più semplice per loro, quindi si può costruire di più, si può cambiare destinazione d'uso con più facilità, si va fuori dagli strumenti di pianificazione, e lo si fa anche dentro situazioni come dire, particolarmente fragili, cioè le aree protette, le zone costiere. Una delle diatribe più forti era proprio legata a queste vicende, cioè anche alla sproporzione, come dire, alla cementificazione delle coste, per esempio attraverso la questione del piano porti, che è veramente una delle cose più insopportabili di questa vicenda. Quindi, come dire, questo ci fa capire che veramente c'è chi è un po' peggio degli altri, insomma, sicuramente la regione in questa situazione ha vinto l'Oscar, però evidentemente sono un po' tutti uguali, insomma, la strada l'aveva aperta Berlusconi con Marrazzo sulla regione Lazio, ha proseguito mettendoci il carico Ciocchetti Polverini, ed ora Le Manno non si è smentito, come dire, facendo anche una cosa abbastanza, e chiudo questa prima parte di commento, abbastanza, come dire, pesante da digerire, perché nella città di Roma, come sapete, quando c'è un cambio di destinazione d'uso, che per esempio può trasformare un'area a uso uffici o ad uso industriale in belle case private, insomma, o centri commerciali da realizzare nei nostri quartieri, comunque oltre agli oneri, quelli che sono dovuti per qualsiasi, come dire, intervento urbanistico, insomma, ed edilizio, c'erano degli oneri straordinari da dover pagare. Certo, uno distruggi la città, distruggi il diritto all'abitare, la qualità della vita, non è che mi accontento dell'onere straordinario, però come avete visto gli è stato anche abbattuto nella maggior parte dei casi, insomma, salvo alcune eccezioni, e questa è un po' la mano da Le Manno, che doveva essere il paladino dei cittadini di fronte ai costruttori. Stanno tutti là, tutti belli in fila, come dire, e mi sembra che siano i costruttori a dettare legge e loro a corrierli dietro, insomma, la politica e soprattutto l'interesse comune di chi non ha questi tipi di interessi, quindi di chi sta dall'altra parte, viene sempre dietro per questi signori. Dunque, io volevo chiederti un paio di cosette, Luca. La prima è proprio in merito al rilascio dei permessi attraverso i quali si può modificare la destinazione d'uso di un terreno o di un immobile, che mi sembra, correggimi se sbaglio, che a partire da adesso non siano più deputati proprio, diciamo, i comuni a rilasciarli, ma le sovrintendenze. Questo credo dovrebbe facilitare ancora di più il rilascio di tali permessi. E l'altro invece aspetto, volevo chiederti, l'opposizione, diciamo, istituzionale, quella che siede all'interno del Consiglio Comunale, come ha reagito, insomma, a questo ennesimo regalo della Giunta ai costruttori romani? Inizio da questo. Mi sembra che in qualche modo quello che avviene in questo caso, insomma, l'aula del Campidoglio, l'aula Giulio Cesare, sia piuttosto un teatrino, cioè stanno tutti lì e fanno finta di fare opposizione, perché in realtà sono tutti legati in un modo o nell'altro a questi interessi forti che sempre nominiamo. Mi pare che un'opposizione vera non c'è stata né in Consiglio regionale, quando è stato approvato alla Regione Lazio, insomma, questo atto scellerato, né tantomeno mi pare che ci siano state le barricate in Campidoglio, sono sempre e soltanto, come dire, i movimenti che provano ad organizzarsi per dire la loro e per diciamo conquistare degli spazi di, come dire, di che possano frenare questo tipo di meccanismo e possano però anche riconquistare dei diritti negati. E dall'altra, rispetto a la questione delle sovrintendenze, forse non la conosco bene, credo che intervengano lì dove ci sono beni ovviamente di carattere storico, culturale, da sorvegliare, e semplicemente questi, come dire, hanno bisogno di presentare una semplice dichiarazione di inizio attività, senza dover stare troppo lì a farsi approvare i progetti di trasformazione, almeno fino a una certa cubatura. La cosa, secondo me, che a me colpisce moltissimo è che in qualche modo la demolizione e ricostruzione con il cambio di destinazione d'uso è sempre possibile. Loro che dicono su quale leva si costruisce quest'ulteriore allargamento, insomma, che la Regione Lazio in primo luogo aveva previsto e che è rimasto tale, sul fatto che si ottiene in cambio, come dire, degli alloggi, loro dicono sociali. Sostanzialmente bisogna ancora capire la contropartita in termini di alloggi, diciamo, calmierati, questo è quello che viene detto dalla Regione Lazio, che tipo di alloggi sono, a quali condizioni, perché loro affermano, lo hanno fatto anche nei tavoli quando abbiamo avuto modo di inchiodarli alle loro responsabilità, che vogliono immaginare una nuova forma di affitto sociale a Roma che non è ancora legiferata in qualche modo. Però il fatto che non sia legiferata, come dire, si può fare di meglio, ma si può fare anche di peggio, insomma, rispetto a questa realtà, è anche un bel salto nel vuoto. Mi colpisce soprattutto il fatto che sostanzialmente un ente pubblico o un'amministrazione, il Comune di Roma, la Regione Lazio, per costruire questo tipo di processi, parlo anche dei grandi progetti, insomma, quindi anche delle grandi cubature, basta che convocano una conferenza unificata e lo approvano contestualmente, sostanzialmente ciascuno di loro la può chiedere, la può ottenere, e invece, come sapete, le norme urbanistiche in vigore sono norme che erano in vigore, che sono in vigore, che fino ad oggi, per processi di trasformazione così consistente prevedono due passaggi in Campidoglio, poi il passaggio in Regione, ci si mette anni, le cose vanno discusse e quant'altro, insomma, poi magari ce la fanno sempre, però evidentemente stanno cercando una corsia accelerata, cioè fanno quello che vogliono, danno forse una contropartita sociale inesistente, lo fanno con molta rapidità, pagano anche meno di concessori, cioè hanno veramente costruito un meccanismo che può uccidere non solo la città di Roma, ovviamente anche complessivamente la Regione Lazio. Questo credo che sia importante dirlo, e forse, diciamo, la battaglia, non quelle, perché farla in questi giorni nei confronti della Regione Lazio, sai, l'hanno approvata, insomma, un po' di tempo fa, insomma, bisogna insistere molto sul Campidoglio per quello che poteva fare, però noi ci abbiamo provato, insomma, a determinare dei passaggi quando si approvava a Regione Lazio, questi passaggi hanno prodotto con Marrazzo, ma poi, come dire, anche con quell'iniziativa molto forte dell'arrampicamento sulle impalcature della Regione Lazio in pieno inverno, abbiamo ottenuto che rimanessero collegati, insomma, a quello che avviene, perché qui si chiama piano casa, in realtà è un piano edilizio, cioè non c'è niente a che vedere col problema della casa, che venissero stanziati e confermati appunto dalla Giunta Polverini un investimento di 100 milioni di euro l'anno sull'edilizia sovvenzionata, che sarebbero le case popolari, che però ancora non vengono spesi, e una serie di meccanismi che possono, come dire, permettere quantomeno di ricavare in automatico, tra virgolette, nel territorio delle aree in cui costruire edilizia sociale, ma per almeno il 50% edilizia sovvenzionata. è un contentino, nel senso che abbiamo ottenuto delle cose anche importanti nel piccolo di una vertenza, ma che sono veramente troppo poco rispetto a quello che sta accadendo, soprattutto se mettiamo insieme questo con quello che accade sul piano governativo, sul piano regionale, sul piano comunale, nel senso che fanno cassa con la vendita di quello che resta del patrimonio pubblico, penso anche alla vendita appunto del demanio regionale o delle caserme per quanto riguarda lo Stato o i depositi ATAC dal quale siamo sgomberati ma nei quali vogliamo tornare insistendo da questo punto di vista, mettiamo insieme tutto quello che può accadere con questi grossi processi che poi vanno nelle mani di questi fondi immobiliari o direttamente dei costruttori, quello che potrà accadere altro che l'emergenza abitativa che conosciamo, c'è la crisi, c'è anche una bolla speculativa che così continuerà ad arrivare alle stelle, cioè è veramente una situazione pesante che merita la costruzione di lotte capillari sul territorio e anche di un grande movimento che leghi le questioni della casa, le questioni del territorio, della città e quant'altro. Assolutamente. Mi viene anche da dire, Luca, che magari, ecco, visto che i passaggi, l'iter insomma legislativo ormai sostanzialmente è avvenuto, magari i passaggi di lotta successivi possono trasferirsi proprio su scala territoriale, di quartiere. D'ora innanzi credo che avremo a che fare con possibilità che all'interno dei nostri quartieri sorgano nuovi scempi urbanistici a mira speculativa, ovviamente, e dunque probabilmente è lì che ancora si può dare battaglia. Peraltro ci giungono segnalazioni che appunto queste mire speculative sono molto forti anche in zone fortemente abitate, in zone a grande densità abitativa ed edilizia, e quindi risulta difficile anche pensare come sia possibile che possano sorgere nuovi edifici con cubature incredibili, oppure vi sono zone in cui lo scempio urbanistico che si annuncia avverrà appunto laddove ci sono parchi, aree verdi, già insomma salta fuori che è un'operazione di questo tipo. Circa 210.000 metri cubi di spazio edificabile avverrà nella zona di via Casa Calda, insomma nei pressi di Torre Maura, per capirci, laddove c'è un parco molto grande che è sotto le mire speculative dei costruttori. È possibile quindi ancora cercare insomma di opporsi alle conseguenze reali poi del piano casa, magari quartiere per quartiere, anche se insomma non, le condizioni non sono le più facili, ma ci si può provare ancora. Ma io credo che questa è l'unica strada possibile, insomma, oltre a insistere sicuramente e a correre dietro e a fare tutto il casino possibile, insomma, passatemi il termine, andando dal Comune di Roma alla Regione Lazio, ai palazzi del governo, io credo che noi scontiamo i limiti, insomma, che esistenti, diciamo, in termini sicuramente di rapporti di forza, dei movimenti dati, ma anche di una dinamica vertenziale che non riesce più, cioè non c'è più risposta, c'è un meccanismo che è anche legato alla crisi che porta a vendere tutto e che rende questi signori ancora più forti di prima rispetto a, come dire, alle mediazioni che poi sul territorio in qualche modo vanno trovate, che erano appunto già scarsissime, per cui diventa anche molto più logorante. Io vedo che dobbiamo, come dire, collegare la questione del piano casa in questo caso delle nostre città a una battaglia più generale, cioè provare ad opporci in maniera capillare, a riprenderci quello che ci viene legato, come di dove ci sono case vuote, dove c'è patrimonio che viene venduto, bisogna entrarci dentro ed esercitare, collegando sicuramente le lotte dei movimenti per il diritto alla casa con quelle dei precari, con quelle dei comitati di quartiere, trovando anche, come dire, la possibilità che insieme non si fa sommatoria ma si aggrega dentro un'idea nuova, però ci si mette in gioco l'idea che si costruiscono dei rapporti di forza che le impediscono fisicamente, insomma, che magari ci permettono, riappropriandoci invece di questi spazi, di un pezzo di città, di un po' di tempo, magari non pagando un affitto o costruendo un ambulatorio popolare e quant'altro, anche di immaginare delle forme nuove di esistenza, insomma, cioè, sicuramente nel conflitto, ma l'idea che tu in qualche modo ti riprendi la città, il territorio e determini un altro modo, un'altra possibilità, la lasci intravedere, è un'idea, come dire, forte anche rispetto a tanti, come dire, elementi di discussione che caratterizzano come dire, il dibattito dei movimenti, diciamo, per i beni comuni o chiamiamoli come volete, insomma, credo che questa sia la frontiera che va calpestata, la strada che bisogna percorrere. D'accordo, grazie Luca del tuo intervento. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Questione di chilometri, un biglietto che saresti stata sempre.